e quanto è bella, spira tanto sentimento, come tu ti tieni mente, cascetta te fai sonno. Guarda qua chi sta ciardino, siente si ci sciurerà. Profuma questi fili, dintro cuore te ne fa, e tutti ci porti a Dio, tal lontano da sto cuore, da sta terra dell'amore, tieni oppure non torna. Da sorriente che tesoro tiene in fondo, chi ha girato tutta mondo non ho visto come qua. Guarda attorno sti serena, qua te guarda non cantate, io te vanno tanto bene, te volesse passare, e tutti ci porti a Dio, tra lontano da sto cuore, da sta terra dell'amore, tieni a cuore.